Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17 e quasi 11 minuti. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia. Questa sera è il mio turno per la conduzione del programma che vi racconta la giornata economico-finanziaria. Borse, cominciamo da queste, piuttosto negative, e Milano ancora una volta decisamente la peggior piazza d'Europa, anzi le altre tutto sommato stanno tenendo e Londra è addirittura positiva, Milano perde un bel punto e mezzo. I cali più forti oggi li ritroviamo su Telecom Italia, c'è tutta una storia oggi dietro a questo movimento così fortemente a ribasso, peraltro il gruppo delle telecomunicazioni italiano, tra poco non più italiano, è arrivato a perdere oltre 9 punti percentuali e vi racconteremo cosa è successo oggi, ma di fatto prima di tutto nella giornata in cui si riuniva il comitato nomine per individuare il prossimo presidente del gruppo, in realtà è cominciata a circolare la voce sul mercato che potrebbe essere presto varato un aumento di capitale. La società poco fa ha emesso un comunicato, dice di non voler commentare queste indiscrezioni, sono le solite congetture giornalistiche, ma di fatto gli investitori ci hanno creduto perché hanno abbandonato a piene mani il titolo. Gli altri ribassi, oggi le banche sono tornate a scendere, ma non solo, comunque i peggiori titoli nel settore bancario, il Banco Popolare e UbiBanca, lo spread si è nuovamente divaricato e poi come sapete c'è anche il tema dei nuovi controlli sui bilanci che verranno condotti prossimamente dalla Banca Centrale Europea, che ha fatto sapere negli ultimi giorni su quali pieghe di bilancio andrà ad analizzare, e da qualche giorno appunto questa circostanza sta penalizzando notevolmente i titoli del settore a Milano come in tutta Europa. Pochi titoli positivi, solamente 3 in questo momento, titoli difensivi: Atlantia, la ex Autostrade, Saipem ed Eni. E questo è naturalmente un tema che approfondiremo a Focus Economia. Di che cos'altro parleremo? Parleremo del vertice europeo nel corso che si è concluso oggi, lo avete sentito anche nel giornale radio, i temi dei quali si doveva discutere erano molti, in primo luogo il tema dell'immigrazione, ma chiaramente c'era anche un po' di imbarazzo fra i capi di Stato appunto e di governo che hanno partecipato, fra cui il Premier Letta, perché chiaramente piombata su questo evento anche la vicenda del Datagate, cioè di questi controlli, di queste intercettazioni da parte degli americani a carico anche dei capi appunto di Stato e di governo europei. E vi racconteremo poi naturalmente anche che cosa ha detto in questa circostanza il Premier Letta. Parleremo poi di una clamorosa forma di protesta che stanno mettendo in atto proprio in queste ore, perché l'iniziativa è partita oggi e si conclude domani, un bel gruppo di imprenditori veneti che domani simbolicamente consegneranno le chiavi della loro azienda al prefetto di Venezia per dire, come si chiama poi tra l'altro la manifestazione, ci state mettendo in strada. Il gruppo di questi imprenditori che organizza questa iniziativa si chiama Nessuno ci ferma e insomma le imprese sono stremate, non ce la fanno più, e adesso a dare, come si direbbe nelle mie Marche, il carico di briscola c'è arrivata anche la legge di stabilità, che insomma viene contestata notevolmente dagli imprenditori. Non basta la misura della riduzione del cuneo fiscale, almeno per la parte che va ad alleggerire anche gli adempimenti e gli oneri delle imprese, chiedono molto di più. Sentiremo tra un po' uno degli imprenditori che anima questa iniziativa, che ci ha già detto: io, tra l'altro, dice, sono tra questi fortunati, tra quelli fortunati sono costretto ad andare ad investire altrove, ad allontanarmi dall'Italia. Tra gli altri temi di cui parleremo appunto poi il caso Telecom, lo affronteremo in dettaglio. Se volete commentare con noi i temi del giorno potete farlo come sempre al 349-238-6666. Adesso andiamo a sentire le notizie in breve. Le materie prime: l'oro oggi a $1,346 l'oncia, il petrolio in risalita a $97,2 al barile in apertura a New York, ma ancora sotto i $100. Tra l'altro oggi il mercato americano è stato animato anche da altre trimestrali che stanno portando anche Wall Street di nuovo verso la strada del rialzo, perché il Dow Jones guadagna lo 0,14%, il Nasdaq più 0,33%. Le trimestrali particolarmente apprezzate dagli investitori americani sono Microsoft ed Amazon, ed entrambi i titoli sono in forte rialzo al Wall Street, addirittura di circa 7 punti percentuali. Il prodotto interno lordo della Gran Bretagna ha registrato una crescita dello 0,8% nel terzo trimestre di quest'anno, dopo il più 0,7% dei tre mesi precedenti. Si tratta della miglior performance trimestrale dal 2010 e rivela importanti segni di crescita in tutti i settori. Insomma, qua tutti stanno pian piano uscendo dalla crisi, addirittura abbiamo raccontato dell'uscita dalla recessione nei giorni scorsi della Spagna, qua solo l'Italia non ce la fa fare nessun passo avanti. Ma tornando al Regno Unito, fra i settori più in crescita, quello delle costruzioni salito del 2,5%, e a questo avrebbe contribuito anche il piano Help to Buy, lanciato, quindi aiuta a comprare, lanciato dal governo britannico, che prevede mutui agevolati per chi compra casa. Beh, insomma, qua con una crisi che è nata proprio per acquisti molto facilitati di case, è anche abbastanza singolare che il recupero dell'economia avvenga con le medesime ricette. Il settore manifatturiero è salito dello 0,9%, mentre quello dei servizi, che rappresenta i tre quarti dell'economia nazionale inglese, è aumentato dello 0,7%. Sarà molto importante la prossima valutazione approfondita delle banche condotta dalla Banca Centrale Europea, l'esame della qualità degli attivi e lo stress test. L'Europa è in ritardo sugli Stati Uniti nella ripulitura dei bilanci societari e secondo me i prestiti all'economia reale torneranno ai livelli che vogliamo solo se avremo bilanci bancari puliti. Questo elemento dell'unione bancaria è cruciale, la BCE lo farà prima di assumere la vigilanza ed è la condizione affinché il credito riparta. Sono parole di Jörg Asmussen, membro del consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea, che ha rilasciato un'intervista in esclusiva alle Sole 24 Ore al nostro Alessandro Merli. Che cos'altro ha detto Asmussen? L'unione bancaria deve includere un meccanismo di risoluzione unico per le banche con tre elementi: un regime europeo, un fondo europeo e un'autorità europea. Vogliamo che sia pronto in prossimità dell'inizio della vigilanza europea nel novembre del 2014. È un programma ambizioso ma fattibile. Oggi a movimentare anche in negativo la seduta di Milano, lo spread fra BTP e Bund, che è risalito a 246 punti base. Ancora una volta si è consumato il sorpasso a noi sfavorevole nei confronti della Spagna, perché il differenziale tra Spagna e Germania è a 238 punti base. Il tasso del BTP decennale italiano è al 4,21%, quello del bonus spagnolo è al 4,14%. Le vendite al dettaglio ad agosto sono tornate positive, solo un timido rialzo pari allo 0,2% rispetto all'anno scorso, ma che almeno interrompe una serie di segni meno che proseguiva da 13 mesi. Lo ha rilevato oggi l'Istat, spiegando come la spinta arrivi dal settore alimentare, che è cresciuto dell'1%. A confronto con luglio le vendite invece restano ferme. Il governo intenderebbe mettere sul mercato una quota del 4% di Eni, operazione che sarebbe in cima al programma di privatizzazioni. Lo ha fatto sapere oggi, la notizia è stata fatta circolare oggi dall'agenzia Bloomberg, che a sua volta ha citato Reuters, un giro di agenzie, ma insomma questo è. Non ci sarebbe invece al momento l'intenzione, sempre secondo le fonti vicine all'operazione, di cedere partecipazioni in Enel o Finmeccanica. All'Italia lotta per la sopravvivenza e molti temono che un'acquisizione da parte di un partner estero farebbe perdere lo stato di hub all'aeroporto di Fiumicino, ma lo scalo romano da anni ha perso la chance di diventarlo e questo è uno dei problemi maggiori della compagnia. Ancora una volta un fatto italiano sulle colonne del Wall Street Journal, che ricorda come British Airways e Swiss 10 anni fa fecero leva proprio sul redditizio traffico a Londra e Zurigo per rimettere a posto le proprie finanze. Qantas e Japan Airlines oggi stanno facendo lo stesso, mentre anni di investimenti sottodimensionati hanno fatto di Fiumicino uno scalo che opera ai limiti della capacità e al di sotto degli standard europei. Fiumicino non ha le dimensioni per diventare un hub, mentre Alitalia non ha le dimensioni per trasformarlo, conclude il Wall Street Journal, in un hub. Per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, l'Italia ha bisogno di un servizio integrato di trasporto e possibilmente, dico io Moretti, che funzioni, sia efficiente, che non faccia continuamente ritardi e penalizzi continuamente tutti coloro che scelgono i mezzi pubblici piuttosto che l'automobile. E comunque, continuando le dichiarazioni di Moretti, un servizio integrato di trasporti in cui gli aerei colleghino città distanti non servite da sistemi veloci di ferrovie. Moretti ne ha parlato a Napoli, a margine del congresso nazionale dell'associazione ANDAF. C'è poi un secondo problema, ha proseguito, e cioè che l'Italia merita di avere collegamenti diretti con i paesi più importanti della politica e dell'economia mondiale. E in quel caso all'Italia, nell'ambito delle alleanze che riterrà giusto fare, sempre incrociando le dita che sopravviva, deve fare uno sforzo di investimento sulla flotta degli aerei continentali, il che non vuole dire qualche aereo in più, ma raddoppiare la flotta. Se non hai una flotta di almeno 50 pezzi, ha concluso Moretti, è difficile avere la massa critica per competere sulle rotte mondiali, e speriamo di trovare un investitore che addirittura consenta dall'Italia di raddoppiare la sua flotta, anche se ci appare un obiettivo obiettivamente adesso difficile. Una notizia di finanza, prima di andare al primo approfondimento di oggi, l'Assemblea di Fondiaria SAI ha approvato il progetto di fusione con Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin, con il voto favorevole del 96,6% del capitale intervenuto, che corrisponde a circa il 62,46% del capitale sociale. Per le notizie in breve è tutto, andiamo al nostro primo approfondimento di oggi. Solamente velocemente una precisazione, perché magari qualcuno di voi nei passati giorni non ha sentito i nostri programmi. Sebastiano Barisoni ritornerà, ha avuto un incidente, si è rotto una gamba, l'abbiamo spiegato mille volte, è una frattura un po' più complicata del previsto, ci metterà un po' di tempo per rimettersi insieme, per cui dovete pazientare e sopportare me e Simone Spezia, che per diversi giorni ancora condurremo questo programma. Vi assicuriamo che facciamo anche noi molta fatica a fare un turno doppio di lavoro, perché si entra qua dentro alle 8 e non si sa mai quando si esce, per cui così, per chi immagina magari che facciamo sempre gli intellettuali in questi ambienti di lavoro, ecco, non è così, perché si lavora anche molto. Allora, andiamo adesso all'imprenditore che vi ho preannunciato prima, che ci racconterà in che cosa consiste questa manifestazione di protesta degli imprenditori veneti, che oggi e domani appunto contestano naturalmente tante cose, non ultime le decisioni prese dal governo nella legge di stabilità. Questi imprenditori aderiscono al gruppo Nessuno ci ferma, e domani ci sarà un gesto simbolico molto significativo che appunto vuole destare l'attenzione generale sulla loro condizione, che è sempre più problematica. Che cosa faranno? Ce lo racconta appunto l'imprenditore veneto che ha accettato di raccontarci questa iniziativa, Maurizio Zordan. Buonasera. Buonasera. Allora, le chiedo intanto subito, se vuole, di raccontarci la sua storia, perché anche lei ha voluto aderire a questo gruppo Nessuno ci ferma, che a sua volta ha organizzato questa manifestazione che si chiama, se non mi ricordo male, Ci state mettendo in strada tutto attaccato. Sì, sì, diciamo, io faccio parte di un'associazione, insieme ad alcuni colleghi dell'associazione abbiamo ritenuto doveroso far sentire in maniera importante la nostra voce. Perché io non ho particolari problemi di azienda, fortunatamente, però vedo il tessuto economico intorno a noi che sta perdendo i pezzi, e purtroppo le misure che vengono prese dal governo non sono all'altezza della situazione, e quindi, con la responsabilità che contraddistingue gli imprenditori, perché per molti imprenditori è una questione, diciamo, di esserci o non esserci, e quindi è una questione vitale, ci è sembrato doveroso, al di là delle sigle di appartenenza, quindi di categoria o meno, fare una manifestazione che portasse l'attenzione sull'impresa e sulla difficoltà dell'impresa. E il Veneto, il Triveneto, è una regione rappresentativa per il tessuto economico di questo paese. Quindi anche lei dice, anche se io sto bene, ho voluto condividere questo momento di difficoltà con gli altri in un'azione di solidarietà, che è il minimo insomma sindacale, certo. Sì, perché le imprese, vede, è difficile far scendere in piazza gli imprenditori. Gli imprenditori di solito si muovono nel silenzio fanno cose che abbiamo visto in questi anni succedere nel silenzio delle loro fabbriche, spesso, oppure indiscriminatamente se ne vanno all'estero. Perché? Perché perdono la fiducia in questo paese. Anch'io avrei adesso dei soldi da investire e devo decidere quanto investirne qui e quanto investirne all'estero. E sinceramente, quando diciamo dal governo si dice adesso noi la nostra parte l'abbiamo fatta con la manovra, adesso tocca agli imprenditori, cioè, ma credono che siamo dei cretini o cosa? Perché Cioè, se Letta e Alfano ci avessero messo la metà dell'energia che hanno, ci hanno messo per far fuori Berlusconi, ma non perché io sia berlusconiano, ma cioè, per fare la manovra, avremmo avuto una manovra sicuramente migliore, perché hanno detto tutti hanno criticato questa manovra, e quindi vuol dire che è andata bene perché ha toccato tutti, ma ci sono due categorie che non si sono lamentate, i politici e i banchieri. Queste due categorie sono state toccate per l'ennesima volta, e quindi il cuneo fiscale è stata una presa in giro, cioè neanche i soldi. Infatti quello lì volevo arrivare, perché non vi basta, insomma, questa riduzione, che qualche miliardo comunque lo mette in campo e viene spalmata anche tra di voi e i vostri dipendenti, perché non è sufficiente? Ma lei sa quanto margina l'INAIL ogni anno in Italia? No, non lo so. L'INAIL ha un margine di circa il 25%, nessuna assicurazione in Italia. Quindi il fatto di aver ridotto appunto il contributo soldi, che si dà all'istituto. E quei soldi lì li restituisce ogni anno al bilancio dello Stato. Quello lì è un prelievo forzoso di un'assicurazione che ha il monopolio in Italia e che ogni anno versa allo Stato una cifra superiore di quella che è stata appena restituita con il cuneo fiscale. Questo cuneo fiscale qui che mette in tasca alle persone 12 euro lordi al mese o 14 che siano, ma io non lo so, la spesa pubblica è 800 e passa. Lei di che miliardi. Cosa avrebbe avuto bisogno, appunto? Quale sarebbe stata una iniziativa? Poi lei dice: io sto bene tutto sommato, ho anche addirittura un po' di soldi da investire, devo solo capire se mantenerli qua in Italia o mandarli fuori. Guardi, di che cosa avrebbe avuto bisogno? O i suoi colleghi che stanno peggio di lei, di cosa avrebbero avuto bisogno? I miei colleghi o anche i miei fornitori, io trovo dei fornitori che hanno magari una proprietà immobiliare metà di 1 milione di euro di valore, hanno un mutuo magari da 150.000 euro, hanno 300.000 euro di affidamenti a breve, e la banca gli chiede di rientrare da un giorno all'altro. Esatto, e non hanno la possibilità di ristrutturare il mutuo pur avendo un valore immobiliare assolutamente al di sopra di quello che è il loro indebitamento medio-lungo. Cioè, queste cose sono le cose, le condizioni di pagamento sono folli in Italia. Cioè, ci sono le aziende piccole che fanno da banca a quelle grandi e pagano alle banche dei tassi che sono a volte diciamo non proponibili, non sopportabili per voi. Senta Zordan, allora io l'ho anticipato nei nostri titoli, il gesto simbolico che voi compirete domani a Venezia, appunto consegnerete le chiavi delle vostre aziende, simbolicamente lo ribadisco, al prefetto. Perché avete scelto il prefetto, non siete andati da un'altra parte, non lo so, magari palazzo della regione piuttosto che altrove, visto che comunque mi pare che è proprio il tema politico quello che vi preme di più. Beh, perché è la politica che deve aiutarvi un po' di più, perché il prefetto? Prefetto è rappresentante dello Stato italiano nella figura garante, certo. Sì, è il rappresentante del Ministero dell'Interno nel territorio, quindi questo è il prefetto. E quindi va bene. A lui va data la... Abbiamo capito. Senta, ma che cosa vi aspettate da questa iniziativa? Lei lo sa che ce ne sono tante di protesta, ci sono addirittura imprenditori che si incatenano davanti alle sedi delle maggiori istituzioni, insomma, vi aspettate una risposta concreta? Ma lei, guardi, sa che ne arrivano sempre molto poche. Io non so se arriveranno risposte, perché la classe politica è troppo viscosa, diciamo, non si muove con la dinamicità che servirebbe e con la forza che servirebbe in queste situazioni. Però noi ci sentiamo in dovere di fare anche questa iniziativa e cerchiamo anche di far cadere quei totem che riguardano la rappresentanza datoriale, che diciamo in qualche maniera anche quella vive di autoreferenzialità. Cioè anche il nostro mondo associativo deve in qualche maniera interpretare in maniera pesante questa situazione, in maniera importante. Con la nostra associazione lo stiamo facendo pur tra mille difficoltà, perché anche noi abbiamo molte difficoltà, ma ci sentiamo in dovere di farlo. Poi se qualcuno fa qualcosa, l'alternativa sarebbe... è quella di andare all'estero o chiudere le aziende. Lei pensa che sia una bella cosa? Assolutamente no, anche perché adesso un conto è magari invitare i giovani ad andare fuori a farsi un'esperienza all'estero, che è sicuramente un toccasana per sé e anche poi per il nostro paese se questa esperienza la riportano, un conto è essere costretti ad andarsene e qua magari appunto si aprono dibattiti diversi. Se la può consolare, Zordan, le leggo un messaggio di un ascoltatore che scrive: complimenti all'imprenditore che state ascoltando per la competenza, ha fatto un'ottima lezione di economia, complimenti ancora. Ci sono tanti altri ascoltatori che vi sono solidali, per cui non non so se vi può consolare, ma è ovvio che voi siete perfettamente consapevoli che il problema lo conoscono tutti, perché tutti stanno pagando le conseguenze di questa difficoltà, dato che il tasso di disoccupazione continua ad aumentare a vista d'occhio. Zordan, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la vostra manifestazione di domani. No, senta, entro quanto deve prendere la decisione di continuare ad investire qui o portare, come dire, il suo investimento altrove? Ma noi investiremo comunque qui, perché diciamo tutto sommato non questa politica, ma le generazioni che ci hanno preceduto hanno lasciato dei valori in Italia, e quindi investiremo comunque qui e investiremo anche all'estero, perché nella valutazione del rischio. Ma esatto, la diversificazione del rischio È una decisione che prenderemo nel giro di pochi mesi. Benissimo. Manca molto. Dobbiamo grazie. Raccogliere le informazioni. Grazie Giordano e buon lavoro per domani. Grazie. Noi ci fermiamo, adesso abbiamo la nostra prima pausa e poi naturalmente andremo a raccontarvi la giornata di borsa che si chiude proprio maluccio per Milano. Piazza Affari meno 1,45% sul FTSE MIB. A tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo in diretta e molti ascoltatori stanno scrivendo, naturalmente esprimendo la loro solidarietà. L'imprenditore che ci ha chiamato prima, che tutto sommato non ci ha raccontato di una storia di difficoltà, perché lui dice: io tutto sommato, tra l'altro non abbiamo raccontato il settore in cui opera, che è il settore dell'arredamento, a lui va bene, però insomma in una ovviamente iniziativa di solidarietà con altri imprenditori del Triveneto che invece se la passano piuttosto male, molte le aziende chiuse, centinaia, anzi direi dall'inizio della crisi, centinaia di migliaia dall'inizio della crisi. Allora domani si consegnano simbolicamente le chiavi dell'azienda al prefetto di Venezia per tornare di nuovo a sollevare fortemente l'attenzione da parte dello Stato nei confronti di queste situazioni. E volevo appunto, poi riporteremo naturalmente anche tutte le vostre manifestazioni di solidarietà al nostro imprenditore appunto che abbiamo sentito all'inizio. Adesso è tempo di raccontare un'altra brutta giornata di borsa, perché qua insomma questa settimana davvero è stata così continuamente da mercoledì in avanti. Allora subito il punto della giornata a Piazza Affari con Chiara Di Cristofaro, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Chiara, buonasera. Buonasera Deborah, buonasera. Allora, faccio un po' un punto della situazione, questo bollettino di guerra. Da una parte facciamo il bollettino medico di Sebastiano, perché raccontiamo a tutti quanti come sta giorno dopo giorno. Dall'altra parte abbiamo invece il bollettino di guerra di borsa, che fondamentalmente riguarda però solo Milano, perché le altre piazze europee tutto sommato stanno tenendo sulla via della chiusura, sono così, ruotano intorno alla parità e consolidano le posizioni dell'ultima settimana, mentre per Milano meno 1,45%. Cosa è successo in tutta la giornata? Ma diciamo Milano è stata la peggiore, ma peggiorata parecchio alla fine, insomma comunque era la più negativa sin dalle prime battute della mattina. È un clima un po' negativo su tutti i periferici, ma anche Madrid è pesante, perde l'1%, torna un po' la sensazione di rischio paese, quindi aumento dello spread, oggi siamo a 246 punti base, banche particolarmente pesanti, e qui entra anche il discorso degli stress test della BCE, e questo ha penalizzato un po' Piazza Affari. C'è da dire che comunque gli operatori non sono particolarmente allarmati, di fatto il bilancio settimanale è praticamente sulla parità e comunque parlano fondamentalmente di realizzi, quindi prese di beneficio dopo i recenti rialzi, quindi un inizio di settimana in forte rialzo e poi prese di profitto sul finale. Sulla notizia appunto delle iniziative della Banca Centrale Europea per il controllo dei bilanci bancari. Allora andiamo un po' a Milano, meno 1,45% sul finale per il FTSE MIB. Raccontiamolo solo in 30 secondi, il caso di Telecom Italia, Chiara, che poi lo approfondirò con Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, ma di fatto insomma il tema è che si è sparsa la voce che potrebbe essere in procinto di varare la società un aumento di capitale, si vocifera 1,5 miliardi, 2 miliardi, ma è sempre così, quando si chiedono soldi al mercato, qualunque la società interessata si scende. Sì, esatto, poi sembrava anche che questa fosse un'ipotesi accantonata, ormai si stava parlando di tutt'altro, quindi il titolo era risalito parecchio, oggi è uscita questa indiscrezione, è arrivato in realtà poi anche un comunicato, ma appunto ne parlerete nel dettaglio, in cui la società frena su quest'ipotesi. Di fatto parliamo del titolo, è arrivato a perdere quasi il 9%, è stato anche sospeso, chiude come titolo peggiore del listino, perché ovviamente l'ipotesi di aumento di capitale è quella vista, quella che gli investitori vedono come l'ipotesi nera, la peggiore. Le peggiori banche invece quali sono state? Allora, le banche, come dicevamo prima, sono andate male un po' tutte, ma le più penalizzate sono state il Banco Popolare, che ha perso il 3,88% e UBI Banca il 3,64%. Male anche tutti gli altri istituti di credito: Unicredit ha perso 2 punti, Banca Popolare di Milano il 2,25%, quindi insomma una pioggia di vendite. Mm-hmm. Intesa San Paolo meno 1,10%. Qui gli stress test della Banca Centrale Europea creano un certo nervosismo, di fatto sono stati resi noti i criteri generali, ma non sono stati resi noti i livelli di questi criteri, quindi non è ancora chiaro effettivamente quali saranno le valutazioni, ovviamente se no sarebbero già finiti gli stress test, e allo stesso tempo, come dicevamo prima, il rialzo dello spread ha penalizzato tutti gli istituti di credito. E quindi insomma banche di nuovo nervose. Allora, tra gli altri ribassi, oggi anche il Biscione è andato male, media 7-3,37%, per qualche ragione particolare? In realtà qui è proprio quello che dicevamo prima, sono realizzi, è uno dei titoli che aveva guadagnato di più nell'ultimo periodo, in una giornata in cui sono scattate le prese di beneficio ha perso parte di quanto aveva guadagnato, viaggia comunque ancora sui massimi. Allora, raccontiamo di nuovo un po' per la seconda giornata consecutiva Autogrill e World Duty Free. Ieri la famiglia Benetton ha messo sul capitale per entrambe le società circa il 9%, per entrambe le società ha messo sul mercato appunto questa quota del 9% del capitale, un collocamento privato. Ieri pensavamo che già i prezzi si fossero assestati su queste notizie, invece oggi di nuovo forti penalizzazioni. Sì, sono scesi sotto il livello dei prezzi di collocamento, perché Autogrill chiude a 6,355 euro, mentre era stata collocata a 6,5. World Duty Free ha perso un altro 3% e chiude a 7,73 euro. Dopo i forti cali di ieri, oggi a penalizzare ulteriormente i titoli c'è stato il report del Credit Suisse. La banca d'affari ha tagliato la raccomandazione a underperform da neutral, quindi consiglia di tenere pochi titoli in portafoglio sostanzialmente per quanto riguarda Autogrill. World Duty Free va un po' sulla scia. C'è da dire che questo collocamento è stato fatto sui massimi, ovviamente i titoli non solo erano saliti molto nell'ultimo periodo, ma poi dopo la scissione che è stata fatta a inizio ottobre sono stati rivalutati tantissimo, quindi il mercato sta un po' facendo i conti. E diciamo che la famiglia Benetton ha anche approfittato di questa tendenza, evidentemente. Diciamo che ha venduto con un'ottima plusvalenza. Direi che proprio non si possono lamentare. Decisamente no. Allora, poi che abbiamo in ribasso, vedo Tots ancora meno 3,20%, per la Popolare dell'Emilia Romagna meno 3 punti percentuali, peraltro una banca che ha fatto parlare molto di sé in questi giorni per ragioni del tutto diverso a questioni appunto finanziarie, perché hanno deciso che non erogheranno più carte di credito o interromperanno appunto il flusso di credito alle persone che sono giocatrici incallite. Appunto è stata una notizia che ha fatto molto parlare di sé, magari che prossimamente approfondiremo perché è molto interessante. Case New Holland, quindi Fiat meno 2,83%, Fiat SPA meno 2,79%. Andiamo un po' a vedere chi si è comportato bene. Vedo un comparto tradizionalmente difensivo in cima alla classifica, Chiara. Sì, gli unici che si sono salvati sono proprio i titoli tradizionalmente difensivi, i petroliferi, oggi ancora petrolio in rialzo, quindi c'è Eni più 0,39%, ha recuperato Atlantia con mezzo punto percentuale di rialzo, Finmeccanica più 0,27%, Ansaldo praticamente sulla parità, andava bene fino all'ultimo anche Saipem, ma poi ha chiuso in lieve caro, seguita da Tenaris e Snam, quindi proprio petroliferi, energetici e industriali. Abbiamo negativa a Brembo, per raccontare appunto società che non sono proprio tale capitalizzazioni più importanti. Qua che cosa è successo? Anche qui, come nel caso di Benetton, c'è stato un collocamento di un pacchetto da parte degli azionisti, in questo caso la famiglia Bomba 6, un pacchetto di circa il 3% a 19,6 euro, e oggi il titolo si è sostanzialmente allineato, chiude a 19,5. Anche in questo caso una vendita fatta sui massimi, basta pensare che dall'inizio dell'anno Brembo è salita del 110%, quindi proprio su a livello. No, poi per carità, Milano non va bene come le altre piazze europee, c'è stato anche questo bilancio che è stato diffuso in questi giorni, che negli ultimi 10 anni Milano ha fatto addirittura peggio di borse lontanissime da noi, ma tutto sommato, se si va bene invece a curiosare, ci sono delle storie incredibili appunto anche e soprattutto di eccellenze nel nostro paese. Tra l'altro pensavo che questo calo di Brembo fosse riconducibile un po' anche alla forza dell'euro, visto che questo è un gruppo che ha interessi a livello internazionale, e invece non è questo il motivo del calo. Concludiamo con queste simpatiche notizie dal mondo del calcio, che ci stanno veramente in questi giorni, stanno movimentando non poco le sedute della borsa italiana. La tua Roma più 3,61%, la mia Juventus più 4%, però la notizia oggi riguarda solo la società bianconera. Sì. Purtroppo sì, purtroppo per me oggi il rialzo è legato non solo ai risultati, non in particolare ai risultati all'attesa di quello che succederà in campo domenica, ma anche da un accordo che è stato annunciato con Adidas per la sponsorizzazione tecnica che partirà dalla prossima stagione sportiva. Il gruppo tedesco sarà uno sponsor di tutte le squadre Juventus per un corrispettivo fisso complessivo su 6 anni di 139,5 milioni di euro, quindi una notizia sicuramente positiva per la squadra dal punto di vista finanziario. Senti, me la racconti la questione della chiusura della fusione tra Unipol e Fonsai? Ma oggi è stato l'ultimo passaggio di fatto, nulla di nuovo dal punto di vista diciamo della borsa, perché infatti i titoli non si sono mossi in maniera particolare, era diciamo più che altro un appuntamento scontato, diciamo, esatto, che avvenisse, simbolico e comunque importante per iniziare il nuovo corso. Esatto, e per chiudere definitivamente quello vecchio, esatto, direi. L'era, esatto. Grazie a Chiara Di Cristoforo, grazie per essere stata con noi, buona serata e buon lavoro. Prima della pausa per sentire cosa succede sulle strade italiane, saluto la nostra prossima ospite che è Antonella Olivieri, buonasera. Ciao, buonasera. Giornata di forte movimento in casa Telecom Italia, tanto per cambiare, e cercheremo tra qualche minuto di capire perché. Eccoci ritrovati in diretta e ancora buonasera da Deborah Rosciani. Allora, la giornata si è conclusa con un meno 6,41% di calo in borsa per Telecom Italia, ma insomma un paio di ore fa le cose stavano andando molto peggio, il calo è arrivato anche al 9%, c'è stata una sospensione inevitabile appunto per ribasso. La notizia qual è? Come se fosse stata chissà quanto dirompente, che insomma le agenzie hanno cominciato a far circolare oggi l'informazione che Telecom potesse varare nelle prossime settimane un aumento di capitale da 1,5 miliardi a 2 miliardi. Oggi per la verità la giornata era concentrata su altre vicende in casa Telecom, perché Antonella Olivieri era in programma la riunione del comitato nomine, visto che c'è un presidente temporaneo che è Aldo Minucci, presidente dell'ANIA, l'associazione appunto delle assicurazioni italiane, che tra l'altro insomma grande esperto di assicurazioni, sta lì al posto di Bernabè perché deve farlo. Ma insomma, tu come giudichi la giornata di oggi, qualora anche ci fosse questo aumento di capitale che non sarà varato nel giro di 2 giorni ma prossimamente dopo l'assemblea eccetera, 2 miliardi spaventano così tanto il mercato? Ma non è quello, il problema è che è una situazione di totale incertezza dove credo che nessuno sappia dove si stia andando veramente a parare. Partiamo da questo, c'è un'azienda che sta preparando un piano industriale e di fatto non può sapere chi sia esattamente l'azionariato che lo sosterrà, perché chi è l'azionista di riferimento? Oggi è Telco, ma Telco di fatto è, diciamo così, opzionata, ma non obbligatoriamente, a Telefonica. E gli azionisti italiani di Telco, è noto, vogliono uscire, sono in una fase di transizione. Dall'altra parte c'è il mercato, c'è un azionista di minoranza con una quota importante che è Findim di Fossati, e che sta cercando di coalizzare il mercato per proporre un'alternativa a una prospettiva, diciamo così, di resa senza condizioni. Insomma, a Telefonica vuole intanto un board indipendente, perché dice, tanto per cominciare, per esempio per quello che riguarda le attività latinoamericane, noi siamo controllati da un gruppo che ci fa concorrenza in queste aree. Ecco, in primo questo luogo, formalmente è già stato risolto dalle autorità sudamericane, che impediscono ai rappresentanti di Telefonica di partecipare alle riunioni dove si discute delle attività sudamericane. Però di fatto non basta, facciamo un esempio, è chiaro che Telefonica per andare avanti ha interesse che non ci sia più la sovrapposizione in Sud America, altrimenti rischierebbe di avere problemi lei stessa in Sud America. E a sto punto non potrà essere Telefonica a chiedere che venga venduto il Brasile, ma chi ci dice che non siano i suoi alleati a chiederlo? Quindi diciamo, obiettivamente, essendo una fase molto delicata per il futuro di Telecom, un consiglio di garanzia, più di garanzia, forse avrebbe anche senso. E quindi allora, insomma, in soldoni tu come te lo spieghi questo calo così profondo di oggi? Dunque, bisogna partire un po', diciamo, dall'inizio. Il titolo è salito molto, ha iniziato a salire dai minimi di agosto, a rimbalzare dai minimi di agosto, con volumi che sono aumentati via via a settembre. Questi volumi hanno rallentato il passo, è come dire chi doveva comprare ha comprato e adesso è finita lì. Le settimane scorse c'erano voci secondo cui la Telecom avrebbe venduto TIM Brasil a 9 miliardi. Bellissimo, probabilmente se ci fosse un'offerta in questo senso, non ci sono grossi indizi che possa esserci veramente un'offerta di questa portata. Esattamente. E allora, cioè, sulla base di queste voci, il titolo saliva. Oggi, sulla base delle voci, secondo cui, diciamo a un ragionamento a tavolino, se non vendi in Brasile, se non vendi un pezzo della rete, come ti finanzi il piano industriale? Magari riesci ad autofinanziartelo, però è legittimo ipotizzare di tutto. Puoi ipotizzare che trattieni i dividendi, puoi ipotizzare che fai un piccolo aumento di capitale, puoi ipotizzare che ti vendi qualche asset tipo le torri mobili, puoi anche ipotizzare che ti vendi tutta TIM italiana. Cioè, voglio dire, qualsiasi ipotesi a tavolino è legittima. La realtà è che il mercato è in balia di una totale incertezza, anche perché la totale incertezza viene dal fatto insomma che non solo c'è questa assemblea pendente con la richiesta di revoca del consiglio, ma c'è anche il fatto che sono stati rivisti gli accordi telco, lasciando tutte le opzioni possibili a Telefonica e nessun obbligo, e quindi non sai che cosa farà per esempio Telefonica. Intanto si è anche al lavoro da parte appunto governativa per modificare la legge che disciplina l'offerta pubblica di acquisto. Con che obiettivo secondo te e con che tempi, che già ti vedo ridere, insomma? Beh, ecco, sotto diciamo anche questo non è che sia proprio tanto chiaro di che cosa pensa il governo. Non è chiaro che cosa pensa il governo. Perché sulla strategicità caso Telecom ci ha riportato alla mente i casi delle scatole cinesi che controllano, sono micro società che controllano a pioggia naturalmente società gigantesche. Diciamo, mentre quindi il Senato ha approvato una mozione praticamente, cioè, all'unanimità, nel senso senza voti contrari, sulla richiesta di modifica della legge dell'OPA, introducendo un'altra soglia legata al controllo di fatto, c'è anche un viceministro, Catricalà, che ha frenato sull'ipotesi. Quindi che cosa si pensi davvero in questo momento non è a livello governativo non è chiaro neppure quello. E diciamo che è un dato di fatto che su Telecom, dall'OPA Colaninno, il controllo di fatto è passato sempre dalle scatole sopra, che non avevano il 30%, quindi non erano nelle condizioni di ricadere sotto l'obbligo di OPA. Voglio dire, è evidente che un tipo di modifica di questo genere darebbe molta, forse anche troppa, discrezionalità alla Consob, che sicuramente sarebbe presa tra 10.000 fuochi ogni volta che dovrebbe decidere. Ma il punto è, forse possono dare anche dei criteri oggettivi. Voglio dire, se una minoranza riesce a determinare la maggioranza del consiglio d'amministrazione, forse è legittimo chiedersi qualche problema c'è. Esatto, in tutto questo forse dei piccoli azionisti anche in molti si dimenticano. Ti faccio sentire, stiamo già chiudendo, forse ce l'abbiamo 50 secondi di tempo per farti sentire le dichiarazioni che questa mattina un manager che conoscerai, Tarak Ben Ammar, ha rilasciato ai microfoni di Giovanni Minoli. Senta, ma il suo amico Franco Bernabè se n'è andato da Telecom lasciando macerie. Ha ereditato le macerie da altri, dobbiamo dire la ne verità. Ne ha messe un po' anche lui dopo. No, diciamo che non ha saputo tenere i soci italiani e spagnoli sulla stessa opinione e visione. E infatti si è tirato, è stato elegante, non ha lottato, ha detto arrivederci. Senta, ma però se uno pensa cos'era la STET, cos'era la Telecom prima dell'arrivo dei capitani coraggiosi alla Colaninno, alla Tronchetti, c'è da rimpiangere le partecipazioni statali. Senza dubbio. In tutta Europa, infatti, i governi e gli stati hanno tenuto le Telecom, che sono gli eserciti di oggi. Si vede adesso con lo scandalo mondiale dell'intercettazione. Signor Tarak, solo l'Italia ha privatizzato le telecomunicazioni, un paese in vendita, insomma. Stiamo suicidando. Un paese senza guida, un paese un po' distratto, e questa distrazione fa che troppa gente vi compra i vostri assets. Non riusciamo a commentare le dichiarazioni di Tarak Ben Ammar, forse però Bernabè non ha tutte queste colpe, ritengo. Io non lo so, poi lo commenteremo un'altra volta con Antonello Olivieri. Subito andiamo al giornale radio, ritorniamo subito dopo con la Borsa Italiana e tanti altri fatti di oggi. Eccoci ritrovati in diretta, intanto che concludo a microfoni spenti una discussione con oggi il nostro regista Fabio Cantadori, a cui dopo chiaramente con il quale poi faremo i conti. Andiamo invece ad un altro tema molto interessante che soprattutto appassiona molti, anche se questi molti per la verità negli ultimi mesi sono un po' stati frustrati perché la tassazione ha colpito anche loro. Adesso vi spiegheremo perché. Parliamo dell'11ª edizione del Trading Online Expo in Borsa Italiana, è una manifestazione dedicata al mondo del trading, all'investimento online. Partecipano a questo evento 40 espositori solo ieri, non conosciamo i numeri di oggi, ha ospitato 1.800 visitatori e naturalmente è stata colta l'occasione anche per fare il punto sulla cosiddetta Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie che da marzo riguarda anche appunto i contratti di compravendita sulla borsa in Italia. E allora cercheremo di capire che impatto ha avuto questa novità, della quale per la verità non si parla moltissimo, e forse anche per questo così è stato necessario fare un punto della situazione, almeno lo abbiamo ritenuto così, con l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaella Ierusalmi, che ringrazio per essere con noi. Buonasera. Buonasera. Intanto come sta andando questo TOL? Ma la Trading Online Expo anche quest'anno, che come lei ricordava ha raggiunto l'11ª edizione, sicuramente sta andando molto bene. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati prima della manifestazione. Ogni anno vediamo che la qualità dei partecipanti aumenta, a dimostrazione che lo sforzo continuo che Borsa Italiana fa per l'education e per aumentare, diciamo, la cultura finanziaria sta effettivamente avendo dei risultati abbastanza importanti. In questi anni, come ricordo sempre, gli sforzi ne abbiamo fatti tanti, insieme ai nostri broker online che sono i maggiori sponsor di questa iniziativa, facciamo anche durante tutto il corso dell'anno molte iniziative di formazione proprio per far sì che la cultura finanziaria in Italia aumenti, soprattutto tra i giovani. Ecco, tra l'altro Ierusalmi, so che voi diffondete anche queste ricerche molto frequentemente, ma qual è la figura tipica del trader in Italia? Perché anche con un po' lo scoraggiamento degli ultimi tempi per la crisi economica facciamo anche fatica ad immaginare che si abbiano delle risorse per mettersi lì davanti ad un computer a fare un po' di operazioni online. E invece, a quanto pare, vi do questo dato: l'Italia è il secondo paese dopo gli Stati Uniti per trading online. Da marzo ad oggi il volume giornaliero degli scambi azionari online è però sceso un bel po', e poi vi racconteremo perché. Ma mantiene ancora questo primato il nostro paese? Il paese mantiene sicuramente il primato, è molto diversificata la categoria dei cosiddetti trader online. Ci sono trader più occasionali che quindi operano, diciamo, occasionalmente, con magari in modo anche intenso ma per periodi brevi, e ci sono poi quelli che sono, secondo me, la categoria dei professionisti o semiprofessionisti che sul trading online hanno costruito una professione. E sono tipologie molto diverse di soggetti, vanno dagli studenti ai pensionati, ai professionisti, a persone che sostanzialmente per qualche motivo hanno interrotto la loro attività lavorativa, la loro professione, che dedicandosi a questa attività in maniera molto molto intensa si hanno trovato in questa una vera e propria professione. E Ierusalmi, naturalmente in queste ore lei in occasione di questo evento è stato stuzzicato sul tema della Tobin Tax, perché ha molto penalizzato anche gli scambi azionari, e chiaramente molti trader hanno ridimensionato notevolmente il loro volume d'affari proprio a causa di questa nuova imposizione fiscale che doveva essere appunto introdotta nel nostro paese, ma chiaramente qua anche per fare un po' di cassa i tempi si sono accelerati. E da marzo appunto che tipo di impatto ha avuto l'introduzione della Tobin Tax sulle negoziazioni in borsa italiana? Ma guardi, l'impatto numericamente parlando è difficile da stimare, ci vorrà più tempo. Quello che posso dire è che la tassa, proprio da un punto di vista concettuale, è assolutamente priva di senso, perché da un lato disincentiva il risparmiatore italiano a investire in azioni di aziende italiane quotate, il che è assurdo, perché sostanzialmente l'imposizione della tassa è fatta solo su chi investe in azioni italiane, chi è italiano e investe in azioni italiane, per cui l'investitore italiano, il trader online, cosa fa? Semplicemente si sposta e investe su azioni tedesche, su azioni francesi, scusi, francesi no, perché anche i francesi anche loro ce l'hanno, anche se sì, esatto, ma tedeschi, americane, svizzere, inglesi e vanno laddove la tassa non c'è, quindi sostanzialmente vanno a penalizzare questa tassa che è stata introdotta solo in Italia e in Francia, in attesa che ci fosse un accordo a livello europeo, che non c'è stato e che forse non ci sarà mai, hanno creato le premesse per uno svantaggio, per porre il paese, l'Italia e il mercato finanziario e soprattutto la borsa in condizioni di svantaggio competitivo molto forte. Senta, le voglio leggere un messaggio di un ascoltatore che mi fa anche un po' sorridere, le vorrei chiedere appunto che cosa ne pensa. C'è un ascoltatore che scrive: trader online, quando si può guadagnare senza sudare, gli italiani sono in prima fila. Corrisponde a questo profilo appunto l'investitore, il trader? Ma no, direi di no, perché contrariamente a quello che avviene magari su quello che è la parte più ludica dell'attività, diciamo, degli italiani, che è quella che tipicamente riguarda le lotterie, i giochi online in genere, che possono andare dal gratta e vinci al Super Enalotto e ad altri, sicuramente quella del trader è un'attività professionale, quindi un'attività che richiede preparazione, che richiede skills, che difficilmente può essere fatta da persone che lo fanno così in maniera occasionale e che tendenzialmente richiede anche molte capacità di sofferenze psicologiche, perché è un'attività molto faticosa. Quindi direi che è il contrario, cioè questa è un'attività, è una professione vera e propria che è faticosa e che sostanzialmente chi la svolge al pari di chi la svolge per grandi banche di investimento, per banche in generale o intermediari finanziari, dove ci sono molti del personale di queste banche che fanno questa attività come professione. Un'ultima domanda, dottor Gerusalmi, poi la lasciamo, una domanda che non ha nulla a che fare con il TOL, però è una domanda che in qualche maniera vi vuole riconoscere un altro merito. Dal 5 all'8 novembre c'è un nuovo appuntamento con il BTP Italia, e siccome è molto effervescente l'attività del segmento dei titoli di Stato appunto in borsa italiana, mi chiedo quali sono le vostre aspettative rispetto anche a questo nuovo appuntamento e la quinta emissione per quello che riguarda il Tesoro italiano. E nelle altre emissioni ricordiamo che il Ministero dell'Economia ha potuto raccogliere ben 44 miliardi di euro, che tra l'altro insomma è andato tutto bene grazie anche all'efficienza delle negoziazioni in borsa. Certo, sì, infatti direi che questa è stata un'idea che abbiamo in qualche modo realizzato congiuntamente col Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sfruttato quelle che sono delle peculiarità della nostra piattaforma, che si rivolge appunto al mercato obbligazionario in particolare, e che ha consentito al Tesoro italiano di collocare quantitativi, come lei ricordava, molto molto elevati di BTP, quelli legati all'inflazione, che peraltro sono stati disegnati apposta per il pubblico retail, sì. negli scorsi anni. E devo dire che le aspettative anche per questa emissione sono molto molto positive. Direi che i risultati sono stati talmente positivi nelle scorse edizioni e nelle scorse emissioni, che addirittura il Tesoro ha dovuto in qualche modo limitare poi l'ammontare e le modalità con cui avveniva il collocamento, per evitare di trovarsi richieste che andassero molto molto al di là di quello che era il loro programma di emissione. Benissimo, grazie Gerusalmi, la lasciamo alla conclusione del TOL. Non so se avete finito già tutti gli appuntamenti, se c'è ancora qualche convegno in corso, e comunque la lasciamo alla sua attività istituzionale. Buona serata, presto. Grazie, arrivederci. Grazie a Raffaele Gerusalmi, amministratore delegato della Borsa Italiana. Direi che possiamo ancora tornare sulle strade italiane a sentire che cosa succede, poi andiamo a Bruxelles con il nostro Enrico Brivio. Un ultimo commento, ovviamente dopo tutta questa diretta mi si comincia ad intracciare la lingua, un ultimo commento sul tema che abbiamo affrontato poco fa con l'amministratore delegato della Borsa Italiana, Raffaele Gerusalmi. Alcuni ascoltatori ci chieda che impatto ha avuto, allora se si hanno dei dati sull'impatto che ha avuto l'introduzione della Tobin Tax sulle negoziazioni appunto da marzo in avanti. Gerusalmi non è voluto sbilanciarsi, vuole avere evidentemente dati precisi, quelli che abbiamo noi, che mi ha raccolto Alessandro Jacopini, è che da marzo ad oggi il volume giornaliero di scambi azionari online è sceso in Italia del 48%, quasi dimezzato, da 4 miliardi e mezzo a 2 miliardi e 900 milioni di euro. È evidente che un impatto c'è stato anche dalla tassazione. Vuoi anche che possa esserci qualcuno che magari ha meno risorse e sta meno, come diceva prima l'ascoltatore, davanti al computer nel tentativo di guadagnare senza sudare? Magari qualche società che prima operava anche con un bel po' di business appunto in questo ambito ha deciso di rinunciarvi. Di fatto, insomma, queste sono le cifre. E adesso invece cambiamo argomento e andiamo a Bruxelles. A Bruxelles, dove si è concluso oggi il Consiglio europeo, che aveva all'ordine del giorno tantissimi argomenti, ma necessariamente ed inevitabilmente è stato monopolizzato quasi interamente dagli sviluppi sul caso Datagate. Buonasera dal nostro Enrico Brivio. Buonasera Enrico. Buonasera. Perché non sei qua davanti a questo microfono a sostituire Sebastiano al posto mio? Perché qua la manovalanza la faccio io, tu invece segui questi eventi che sono molto interessanti. Allora, a prescindere dalla questione dell'immigrazione questione che magari se avremo tempo commenteremo, Enrico, ma è vero che è stato quasi monopolizzato dagli sviluppi sul caso Datagate questo vertice? Beh, diciamo che è stato soprattutto nella prima giornata un elemento che ha un po' tenuto banco, perché è un po' piombato su questo vertice che doveva essere dedicato all'agenda digitale, a un mercato unico delle telecom, agli sforzi insomma per dare più competitività all'economia sul fronte dell'elettronica, delle nuove tecnologie. È piombato questo caso Datagate, che in effetti è in qualche modo legato, perché ovviamente il fatto di unificare un mercato dal punto di vista tecnologico implica anche la protezione di questi dati, e quindi sapere che poi il telefonino della Merkel era spiato e quello di altri 35 leader occidentali fa un certo effetto, obiettivamente. C'è stata questa accelerazione franco-tedesca, diciamo che questo caso ha fatto rispolverare un po' l'asse franco-tedesco, che su tante cose non va più tanto d'accordo, no? Dall'unione bancaria alle politiche economiche. Alle politiche del rigore. Esatto. E quindi invece su questo fronte, essendo entrambi spiati, Hollande e la Merkel, si sono trovati solidari e hanno un po' trascinato tutti i paesi, con le ovvie resistenze inglesi di Cameron, che come sappiamo ha un rapporto speciale con gli inglesi e addirittura è sospettato di aver collaborato con gli americani, e addirittura sospettato di aver collaborato in qualche operazione. No, di intelligence. Lui dice: lo spionaggio salva la gente dal terrorismo, è un'interpretazione un po' ardita, però insomma, senti, ti faccio sentire quello che ha detto il Premier Letta su questo argomento, sentiamolo. Mi sembra che ieri sulla questione del cosiddetto Datagate la discussione che c'è stata e anche qui le conclusioni sono state, le giudico sicuramente un fatto positivo, nel senso che si è deciso anche qui molto operativamente, a partire da un'iniziativa franco-tedesca, perché questo è un tema sul quale sono i singoli paesi che sono più coinvolti rispetto alle istituzioni comunitarie in quanto tali, e quindi abbiamo anche noi stessi salutato positivamente che Francia e Germania prendessero un'iniziativa alla quale ci siamo associati completamente, iniziativa che ovviamente adesso poi deve essere operativa per chiedere i chiarimenti necessari, perché non sono concepibili zone d'ombra tra alleati, quali siamo e quali vogliamo essere e rimanere, e soprattutto perché c'è bisogno di fare chiarezza a tutti i livelli, sia dentro l'Unione Europea, sia con gli americani, sia, insomma, è venuto il momento, credo, di rimettere ordine dentro una materia, quella delle intercettazioni telefoniche e del Datagate, che in cui sono venuti alla luce elementi che rappresentano sicuramente qualche cosa non di positivo. Determinazione, noi siamo sicuramente interessati al massimo di chiarimento, per la nostra parte parteciperemo ai chiarimenti che sono necessari con il massimo di impegno. Un finale di puntata direi a dir poco spumeggiante, perché ci ha raggiunto anche il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, che saluto. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Datagate, intercettazioni, l'euro che vola, il vertice europeo, la politica e la Tobin Tax, tutti temi al centro del tuo editoriale di questa mattina, intitolato "Un vuoto che ingrossa Wall Street, il bilancio dei problemi europei va a tutto vantaggio degli Stati Uniti". Perché? Beh, perché basta guardare l'andamento intanto del dollaro. Quella che dovrebbe essere la superpotenza, il paese che per primo è uscito dalla recessione, che è tornato a crescere anche per l'occupazione, beh, insomma, i tassi di interesse perché sono così bassi? Perché il dollaro è così basso? È la superpotenza americana. In questo momento siamo, diciamo così, quello che è importante capire è che siamo in mezzo a due spinte molto forti. Una è quella cinese. Vedete, oggi i tassi di interesse che sono saliti in Cina, lo yuan che è ai massimi di 7 anni, e dall'altra parte la superpotenza americana, che per risollevare il proprio commercio internazionale sta tenendo artificialmente basso il dollaro, sfruttando che cosa? Le debolezze della governance europea, la nostra incapacità quindi di parlare con una sola tutto merito voce della Federal Reserve. Poi c'è la grande speculazione, che ovviamente in una situazione come questa si ingrassa. Questo è un po' il concetto. Per quale motivo? Perché se è un gioco di variabili indovinare quale sarà l'andamento di un titolo, beh, quando una variabile è ferma, come il dollaro che è tenuto basso, è più facile poter scommettere contro questa o quell'altra valuta, perché in questo momento il dollaro è in un livello che si muove di pochi centesimi su o giù al mese, la banda di oscillazione è estremamente ristretta. Ma insomma, quello che però è interessante in questo momento è che, mancando una risposta, una capacità europea di parlare con una sola voce di fronte alle grandi tematiche, compresa questa del data gate, sì, infatti, no? Perché Cameron non lo difende addirittura, questo vabbè, espone, Cameron poi è una voce particolare chiaramente, non, certo, nel contesto europeo, però, tradizionale. Questo espone fortemente i paesi più deboli come l'Italia, in questo momento più fragili, a ripercussioni molto gravi quando ci sono movimenti speculativi di denaro, e quello che stiamo vedendo in questi giorni è esattamente questo. È una cosa incredibile quella che ci racconti, se pensiamo che solo fino a 3 giorni fa praticamente gli Stati Uniti erano sull'orlo di una bancarotta. Questi qua, adesso è chiaro che era stata un po' una polemica anche surreale, sì, perché nessuno ci credeva effettivamente che si potesse arrivare ad uno scenario incredibile come quello, però insomma, certo, questi qua si risollevano da un giorno all'altro, addirittura ci mettono sotto scacco. Questo fa capire che cosa, che diciamo così, per i mercati non è che conta soltanto la stabilità del momento, è una stabilità di lungo periodo. L'America si presenta di fronte ai mercati internazionali con una continuità di gestione di che cosa? Dell'interesse americano. Da noi si parla sempre molto di più delle, diciamo, le linee di partito, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra. In America la percezione che c'è della politica è quella dell'interesse americano, e questo sicuramente è un elemento che stabilizza le loro politiche economiche, industriali e anche in fondo monetarie, perché come vediamo Federal Reserve e Tesoro si muovono lungo la stessa direzione di sostenere l'industria e il commercio americano. Un'ultima, nel tuo editoriale stamattina tocchi anche il tema della Tobin Tax. Noi poco fa ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato della Borsa Italiana, appunto Raffaele Ierusalmi, che dice è totalmente inutile, penalizza risparmiatori ed imprese nel nostro, appunto, nel nostro contesto, l'abbiamo applicata solo noi, peraltro chiaramente il governo ne ha approfittato, perché per fare un po' di cassa tutti gli spunti che può trovare lì ne approfitta. E in che modo l'hai inserito nel tuo editoriale di stamattina? L'ho inserito perché è questa incapacità di fare politiche coordinate e comuni in Europa. Noi, l'Eurozona dovrebbe essere un mercato unico dove facciamo tante direttive per decidere come si investe, come si devono comportare le banche, come dobbiamo persino congelare il pesce. Questa è la cosa che veramente. Quindi passiamo di tutto e di più, però allo stesso tempo si lascia poi una eccessiva discrezionalità agli stati per decidere alcune, diciamo così, manovre sui mercati finanziari. Guardate, sui mercati finanziari è una regola questa che vale per tutti, bisogna avere regole uguali, omogenee, questo per non creare che cosa? Un arbitraggio oppure una scelta, penalizzazione di alcuni mercati per andare dove? E questo è un punto di riferimento, deve esserlo sempre, dove ci sono le migliori condizioni. È come quando andiamo in vacanza, noi dobbiamo che cosa scegliamo? Le migliori condizioni, il miglior rapporto fra qualità e prezzo. Purtroppo l'Italia in questo momento, anche con la Tobin Tax, ma è stata anche la Robin Tax per l'energia a penalizzarci, è percepita come non buono nel rapporto fra qualità e prezzo, costiamo troppo, e questo è un elemento che ci penalizza. E poi per un'ultima cosa, per chiudere, per la Tobin Tax, quello che innervosisce non è soltanto il fatto della tassa in sé, ma che l'Europa andrà verso una Tobin Tax uguale per tutti, che è profondamente diversa da quella italiana, quindi cambieremo nuovamente le regole di qui a un anno e mezzo. Domani sul Sole 24 Ore cosa troviamo? Un'anticipazione di 3 secondi? Troviamo molto sui mercati finanziari, perché abbiamo dedicato molto spazio a capire che cosa sta succedendo sulle valute, e poi di finanze, i soliti problemi italiani come l'Alitalia, Telecom e così via. Cose vecchie ma sempre nuove, grazie. Cose nuove ma sempre vecchie, grazie ad Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie a tutti. Noi torniamo lunedì, ahimè per voi ci sarò un'altra volta io, Focus Economia. Buon weekend a tutti. Radio 24, la passione si sente.